E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Essere e Avere, di Maria Luisa Pezzali. Farsi promozione per fare promozione. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Potrebbe essere questa la formula per riassumere la nuova iniziativa di YouTube, una serie web tutta incentrata sul mondo pubblicitario. Ne parleremo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Lo sapete che anche comprando si impara? Nel focus sui trend parleremo di edu shopping, la nuova tendenza che interessa negozi e prodotti. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Adidas si scusa e rinuncia al lancio sul mercato delle nuove sneaker, accusate di essere razziste. Le vistose catene di gomma arancione che assicurano le scarpe alle caviglie hanno fatto infuriare la comunità nera e i movimenti dei diritti civili, perché è considerato un richiamo ai ceppi in uso durante la schiavitù e nelle carceri di massima sicurezza. Ford e Coca-Cola si schierano con Facebook e assicurano che la pubblicità sul social network funziona. Un'iniezione di fiducia per il modello di business del social network, dopo che General Motors ha messo fine alla sua campagna da 10 milioni di dollari, spiegando che la pubblicità non aveva impatto sui consumatori. Unhate, la celebre campagna di Benetton che ritrae, tra gli altri, il Papa e l'Imam, Obama e Hu Jintao, il presidente palestinese Abbas e il premier israeliano Netanyahu in un bacio appassionato, si è aggiudicata il premio per la migliore campagna stampa mondiale al Festival Internazionale della Creatività di Cannes. La campagna supporta anche la fondazione Unhate, che si propone di organizzare iniziative di contrasto alla cultura dell'odio. Yves Saint Laurent cambia nome. Dall'anno prossimo, gli abiti della casa di moda francese saranno venduti con il marchio Saint Laurent Paris. Lo ha annunciato il nuovo direttore artistico della Maison, Eddie Sliman, arrivato nel marzo scorso dopo aver lasciato Dior. Il nome del fondatore resta tuttavia quello della società, così come il logo creato nel 1961. Dopo Karl Lagerfeld, Marni e Versace, è il turno di Martin Margiela. Sarà la Maison belga a firmare la prossima capsule collection di abbigliamento e accessori per H&M. Debutterà il prossimo 15 novembre. Arriva anche in Italia lo slacklining, disciplina sportiva che consiste nel camminare su una corda elastica ancorata a due alberi, modello funambolo. Nato in America, lo slacklining è comparso da qualche mese nei parchi di Milano. Equilibrio, concentrazione e coordinamento, le doti necessarie. La borsa della spesa. Esiste davvero? Certo che esiste, bello, è il Dog Brello. Il Dog Brello? Sì, dannazione, sei sordo? No, è solo che... Cosa? Che c'è che non va? Mi sembra un po' ridicolo. Ridicolo? Nel caso non lo sapessi, il Dog Brello è la più grande invenzione di tutti i tempi. È chiaro? Sì, signore, chiaro. Beh, potremmo andare per strada e metterci a parlare a voce molto alta. Tipo... Ehi, Susanna! Hai mai sentito parlare del Dog Brello? È fantastica! Va bene, aspetta, aspetta. Perché non andiamo in giro, bagniamo i cani dei passanti e poi gli offriamo il Dog Brello? Wow! Esattamente, Carlo, wow! Voglio un tupè baby sulla testa di ogni neonato entro la fine della settimana! Sto parlando di brand awareness, ciurma! Brand awareness! Ditemi, come facciamo a far parlare tutti di questa cosa? Tu che cosa faresti? Era The Meeting, la serie web dedicata a brand, centri media e agenzie creative lanciata da YouTube per illustrare le opportunità pubblicitarie della piattaforma video più utilizzata al mondo. I personaggi sono quelli tipici di un'agenzia di comunicazione: c'è la media planner, la media manager, il marketing manager, l'account director e il presidente. The Meeting è anche la prima serie web interattiva in cui lo spettatore è chiamato a fare delle scelte alla fine di ogni puntata. Nell'era del marketing per forza e della crisi del mercato pubblicitario tradizionale, YouTube si fa promozione con questo progetto innovativo e divertente. Un progetto che anche al consumatore racconta qualcosa. Ne abbiamo parlato con Alessandro Antiga, direttore marketing di Google, che, per chi non lo sapesse, è il proprietario di YouTube. La strategia è quella di far capire come YouTube si sia uno strumento di comunicazione ormai indispensabile per i brand, per le nostre aziende. Il target quindi di riferimento al quale noi ci rivolgiamo sono anzitutto gli addetti ai lavori, ossia i responsabili marketing, le agenzie media, le agenzie creative, ossia tutti quelli che decidono le strategie pubblicitarie di comunicazione di un brand. Ci rivolgiamo quindi a dei professionisti, ma per un motivo molto semplice, perché gli utenti, ossia tutti noi alla fine che siamo utilizzatori, utilizziamo i nuovi media in maniera massiccia. Per dire un paio di numeri, YouTube nel mondo ormai stiamo parlando di 850 milioni di utenti al mese, parliamo di oltre 72 ore di video caricati ogni minuto. E lo facciamo attraverso un modo ironico in cui ci prendiamo con ironia, ci prendiamo un po' in giro andando a raccontare questa riunione, questo meeting in cui le persone che citavo prima, ossia il marketing di un'azienda, l'agenzia creativa, l'agenzia di comunicazione, l'agenzia che fa pianificazione, si ritrovano a dover risolvere dei problemi quotidiani per gli addetti ai lavori, ossia incrementare il reach di una campagna, quindi l'esposizione, bilanciare un target, fare efficienza di costi, quindi tutti problemi veramente reali. Lo facciamo in modo molto ironico, andando a presentare dei prodotti veramente surreali, volutamente iperbolici, come abbiamo definito il dogbrello, quindi un ombrello per cani, un dormimpiedi, un saltacoda. C'è molta polemica, il dibattito è molto acceso per quanto riguarda l'inserimento della pubblicità nei social network. Il consumatore lo può vedere come un'invasione di campo nella sua socialità, nelle sue dinamiche di condivisione. Quali sono gli elementi da tenere presente dal vostro punto di vista? Vorrei citare due aspetti. Allora, da un lato è importante, ecco, questa è un po' l'ottica anche di Google in tutto quello che noi chiamiamo il search marketing, il search advertising, essere rilevanti per il contenuto degli utenti. La pubblicità non deve essere assolutamente invasiva, quindi devo passare da un concetto di pubblicità a un concetto di informazione, e quindi se sto guardando un video sportivo, beh, probabilmente sarò interessato ad un video di un brand che riguarda questo mondo. La cosa molto importante sono anche i formati che si utilizzano. Ad esempio, noi abbiamo tutta una serie di formati che si chiamano TrueView, in cui dopo qualche secondo un utente può decidere di non vedere il messaggio pubblicitario, quindi di saltarlo totalmente. Questo è un vantaggio per l'utente se non lo ritiene rilevante, ma è soprattutto un vantaggio per l'inserzionista, per le aziende che fanno pubblicità, perché io pagherò solo se l'utente avrà scelto di vedere il video interamente. E questa è una bella rivoluzione, riteniamo. Noi con The Meeting siamo andati a scegliere una strada che è quella dell'intrattenimento, ad esempio, che è ovviamente molto in stile YouTube. Non è solamente un esercizio di prendere un filmato da un canale televisivo e metterlo su un canale online, ma è invece un esercizio più complesso, capire le logiche dell'online. Al di là del pubblico di settore al quale è rivolta questa serie web, anche al consumatore racconta qualcosa, racconta dell'evoluzione che sta attraversando la pubblicità in questo momento. Quella tradizionale non basta più, perché il consumatore è multicanale e quindi bisogna instaurare nuove dinamiche di comunicazione, così. Esattamente, lei l'ha descritto molto bene. Il mondo della pubblicità in questo momento direi che segue quello che l'utente fa già. In questo caso le aziende sono molto più arretrate rispetto alle abitudini dei consumatori. Quello che succede nel mondo della pubblicità, lo ripeto, è un riflesso di un comportamento che gli utenti già fanno. Vorrei parare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire. Lo sapete che anche dallo shopping si può imparare? Di nuovo in studio con Essere e Avere, nel focus sui trend di questa settimana parliamo di edu shopping. A guidarci nella riflessione c'è come sempre la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, grazie. Con EduShopping vogliamo indicare tutti quei prodotti, quei negozi, quelle campagne di comunicazione che intendono trasformare l'esperienza di acquisto in un'esperienza di conoscenza. Si tratta in pratica della traduzione commerciale dell'edutainment, la forma di intrattenimento che vuole educare e divertire nello stesso tempo. Dai videogiochi educativi ai corner nei negozi o i kit abbinati ai prodotti che insegnano a fare praticamente tutto, dalle etichette intelligenti che ci raccontano la storia dei prodotti fino alle campagne di comunicazione su temi quali alimentazione, risparmio energetico, consumo responsabile. Patrizia. I brand oggi hanno a che fare, lo sappiamo, con consumatori esigenti, critici, partecipativi, con cui stanno rifondando la relazione attraverso conversazioni nell'ecosistema digitale, flussi informativi bidirezionali, coinvolgimento diretto e anche attraverso l'educazione, nel senso in cui ne stiamo parlando oggi. In questo nuovo contesto vanno ripensati dunque i contenuti dei messaggi pubblicitari, i punti di contatto, i canali di comunicazione. E se è senz'altro più difficile per la marca oggi relazionarsi con questi consumatori clienti, è anche vero che l'EduShopping è un'opportunità, perché siamo tutti pronti e disposti a imparare, siamo disposti a saperne di più sul brand, sulla storia dei prodotti, dei servizi, sui loro luoghi di origine, sui processi produttivi e anche sulle persone che stanno dietro parole come filiera, produttori, eccetera. Tra le molte cose che si possono fare oggi nei negozi, come anticipavi, ci sono le occasioni formative, si fa shopping e si impara, appunto. Paradigmatico in tema EduShopping nel mondo food è Italy, notissima insegna italiana, il supermercato gourmet didattico, un punto di vendita che fa appunto educazione alimentare con una sua didattica molto precisa che si esprime sul piano comunicativo in soluzioni espositive altamente coinvolgenti proprio sul piano dell'informazione, della scoperta di ciò che si andrà a comprare. Altro luogo dove l'acquisto e la fruizione diventano percorsi di conoscenza, il ristorante Conflict Kitchen di Pittsburgh. Il cibo, elemento socializzante per eccellenza, qui si carica di una valenza oltre che sociale, interculturale. È una sorta di ristorante performance che serve piatti scelti dalle cucine tradizionali, etniche dei paesi in conflitto culturale o effettivo con gli Stati Uniti, e il ristorante è di fatto un espediente per approfondire in modo piacevole, con eventi culturali a tema, interviste, performance artistiche, discussioni, eccetera, le questioni geopolitiche contemporanee, partendo dalla cultura di questi paesi e dalle loro espressioni più immediatamente avvicinabili, appunto il cibo. E in tempi di globalizzazione e di nuove sensibilità etiche legate alla sostenibilità, sapere da dove arrivano i prodotti che si intendono acquistare interessa sempre di più i consumatori. In questo senso le etichette intelligenti aiutano a dare informazioni complete sui prodotti, sulla loro tracciabilità, anche grazie alle nuove tecnologie come i QR code che, inquadrati, ci fanno vedere la storia del prodotto, eccetera. Quindi più informazioni che oggi consumatori sono in grado di cercare di decodificare e che riconoscono come valore molto influente sulle decisioni d'acquisto. Historytag.com è un servizio interessante in questo senso di etichette tracciabili, un servizio che fornisce un codice alle aziende da inserire sulle etichette di qualsiasi prodotto, per esempio jeans, e che consente, se inserito nel sito Historytag, di avere con immagini, testi e narrazioni la storia del prodotto acquistato dalla nascita fino all'eventuale riciclo, storia che si può continuamente alimentare e postare via Twitter e su Flickr per condividerla. Anche un prodotto cult dell'elettronica di consumo come i videogiochi è diventato educativo. Sono molti gli edugames proposti dalle case produttrici. Poi ci sono quelli di informazione e di denuncia scaricabili dai siti di varie organizzazioni no profit per sensibilizzare su temi quali diritti umani, ambiente, povertà e conflitti. La più famosa di queste organizzazioni, Games for Change, collabora, pensate, con l'amministrazione Obama e con l'ONU. L'italiana Molle Industria, collettivo già noto per i suoi videogiochi radicali contro le multinazionali, il Vaticano, l'industria del petrolio, solo per citare qualcuno dei suoi obiettivi, è salita alla ribalta delle cronache con Phone Story, videogame di denuncia contro il processo industriale per la produzione degli iPhone. Un invito a riflettere sull'impatto del consumismo high-tech. Ecco come il suo fondatore Paolo Pedercini spiega questa nuova missione dei videogiochi. Una delle cose che mi interessano esplorare di più è quello di mettere in discussione questa funzione evasiva dei videogiochi, cioè il fatto che i videogiochi sono una cosa che fai al ritorno dal lavoro, insomma, e parlo di queste cose che fai normalmente nei videogiochi come salvare principesse, raccogliere monetine disseminate per nessuna ragione in questi mondi virtuali, mangiare funghetti e immaginarsi di essere in questi regni magici, eccetera. Insomma, giochi come fantasia di potere sostanzialmente. A volte mi piace andare contro questa tendenza e fare giochi proprio sulla vita quotidiana. E con questi giochi non mi interessa solo promuovere certe idee popolari, usarli come media alternativi. Per me una questione ancora più cruciale è quella dell'alfabetizzazione al linguaggio videoludico. Patrizia, anche la pubblicità fatta alla tara, per così dire, sui falsi si è in molti casi responsabilizzata lanciando messaggi educativi al consumatore. Tra i molti modi per istruire, per educare il consumatore, la marca, le aziende usano naturalmente la pubblicità, che continua a promettere più del possibile, ma a volte si impegna anche a educarci proprio con esperienze anche molto dirette. Solo se hai fame capirai chi è affamato. Questo è il claim di due pizzerie in Paraguay che hanno aderito alla campagna Hunger Delivery, consegna la fame, promossa da una fondazione locale, consegnando pizze a domicilio con un ritardo tale da far imbufalire i clienti fino al momento in cui questi scoprono che il messaggio è sperimentare la fame che molti, ahimè, vivono come condizione stabile. Un messaggio che sensibilizza e fa riflettere, facendo entrare empaticamente e direttamente nell'esperienza specifica. Sul cartone della pizza questa scritta: la tua cena ha tardato ad arrivare, ma a molti non arriva proprio. La pizza di fatto poi viene omaggiata e i clienti sono invitati a fare una donazione a sostegno di questa causa. Sui comportamenti socialmente responsabili, interessante anche l'iniziativa di un'associazione belga che ha lanciato una campagna dissuasiva contro l'abitudine di scrivere SMS mentre si guida, causa conclamata peraltro di incidenti automobilistici mortali, soprattutto tra gli under 25 e non solo in Belgio. Questa è l'idea: partecipare alla campagna facendo un test drive con un istruttore che ti costringe a mandargli messaggi mentre guidi, dimostrando attraverso l'esperienza diretta l'impossibilità di fare bene le due cose. Un'altra modalità educativa per trasmettere sapere intorno ai propri prodotti da parte dei brand sono i kit per l'autoproduzione, per costruire, assemblare, produrre dopo aver imparato come si fa. È un processo di sviluppo di competenze correlato ovviamente all'universo degli how-to online, dei video cioè in cui le persone comuni mostrano e descrivono come fare qualsiasi cosa, dalla bigiotteria alle ricette cucinate, all'uso delle stampanti 3D e via dicendo. Insomma, i tutorial attraverso i quali ci si passano istruzioni e competenze messe a disposizione di tutti. Ma questo tipo di esperienze di apprendimento sono anche sempre più offline, questo è un dato interessante, e fatte e promosse anche dalle aziende. In ambito food and beverage, Havana Club, celebre marchio di rum cubani, ha realizzato per esempio un evento di comunicazione temporaneo itinerante in Europa per dimostrare e insegnare come si fa il vero mojito, altrettanto celebre cocktail cubano a base appunto di rum bianco. Nelle location prescelte ci si fa il proprio mojito, assistiti da barman professionisti ovviamente cubani. Poi in un mercatino posizionato all'uscita si può acquistare tutto l'occorrente per rifarselo a casa, dagli utensili agli ingredienti, comprese le bustine di semi di yerba buena da seminare e coltivare in terrazzo. Oppure, altro esempio non di comunicazione ma di retail, a Londra al Farm Shop, format molto originale di negozio di alimentari appunto che è anche fattoria, oltre alla vendita si tengono veri e propri corsi, sessioni di training, incontri con esperti e convegni su autoproduzione alimentare e anche sull'allevamento indoor. E visto che c'è un'app per qualsiasi cosa, utile o inutile, ovviamente ci sono le app istruttive che hanno anche una categoria dedicata, si chiama Educational, nell'ambito dei prestigiosi Webby Awards. Per esempio How Stuff Works, come funzionano le cose, tutte, che è un'app legata all'omonimo aggregatore di fatti, curiosità, podcast e contenuti vari di questo consultatissimo sito, oppure Eco Imagination per adulti e bambini sulle energie rinnovabili. Cosa c'è di nuovo a Parigi su Edu Shopping e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Aroma Zone è un marchio specializzato nella produzione di cosmetici naturali e eco-friendly. La sua caratteristica principale consiste nella vendita delle materie prime associate alle formule e le attrezzature per realizzare in casa il proprio cosmetico. A questo scopo i suoi punti vendita sono allestiti come dei veri e propri atelier in cui si apprendono le preparazioni dei prodotti. Questi negozi scuola, infatti, ospitano ogni giorno corsi di formazione per aspiranti chimici tenuti da specialisti del settore che davanti a boccette, alambicchi, misuratori e flaconi di oli essenziali assistono gli apprendisti nella creazione del proprio cosmetico. E una volta assimilata la tecnica, nel negozio troveranno tutto il materiale per continuare a produrre i loro cosmetici autonomamente. L'acquisto e la produzione sono supportate anche da un fornitissimo shop online, un blog, un canale YouTube e un customer service gestito da tecnici ed esperti che rispondono personalmente ai dubbi dei clienti. Grazie Alessia. Patrizia, per concludere su questa tendenza, diventerà un passo obbligato quello di educare, informare per le aziende che si trovano di fronte a consumatori sempre più preparati e più critici? Sì, i consumatori sono preparati, critici, consapevoli, eccetera, in questo senso educati, che non significa persone per bene, ma appunto preparati. E questa è un'opportunità, perché tra marca e consumatore ci sono questi nuovi saperi circolanti, e una via per una buona relazione è anche questa, cioè la trasparenza e il rilascio di informazioni, di esperienze a vero valore aggiunto, quindi meno promesse, più verità da declinare in termini di customer experience in chiave educativa. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.